La vicenda dei 37 profughi della CAP Namur dimostra che questo governo e purtroppo bisogna dire la gran parte dei governi europei hanno un'idea del diritto d'asilo che è perlomeno demagogica e strumentale, ossia considerano i richiedenti asilo, lo hanno detto in più sedi, sostanzialmente dei millantatori, cioè persone che vengono in Europa a chiedere asilo semplicemente perché non possono entrare per le ragioni reali del loro viaggio, che sono quelle economiche. Tant'è che la conclusione di questa vicenda, in cui il governo italiano si è comportato in maniera irresponsabile, è quella che i 37 profughi africani sono oggi detenuti illegalmente in un CPT. Dico illegalmente perché la legge prevede per queste persone l'accesso alla procedura d'asilo e questo deve avvenire in condizione di libertà, non in condizione di restringimento della libertà. E la conclusione appunto è quella che dimostra che questi sono falsi richiedenti asilo. In realtà noi sappiamo, e il governo sa, che si tratta di persone che in gran parte, non tutte, però in gran parte provengono dal Sudan, poi provengono anche dalla Nigeria e da altri paesi africani, aree in cui c'è comunque in corso una guerra civile, e in più è anche ingiustificato il fatto che sia stato tratto in arresto il comandante della nave e il presidente dell'associazione CAP Namur, perché si tratta per la prima volta di persone che hanno in maniera del tutto trasparente consentito a dei profughi di arrivare in sicurezza in Italia e in Europa, quindi senza lasciarli nelle mani dei trafficanti. Noi come organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo sono anni che chiediamo che ci sia un canale protetto per l'ingresso in Europa di queste persone che fuggono da situazioni di persecuzione e di guerra. Questa è la prima volta che ciò avviene e paradossalmente il governo italiano arresta le persone che sono responsabili di avere salvaguardato la vita dei profughi, accusandoli di traffico di clandestini, cosa veramente irresponsabile e priva di ogni fondamento, perché se uno fa traffici di clandestini chiaramente non lo fa alla luce del sole e dichiarando il proprio nome, la disponibilità ad entrare a farli sbarcare. Tengo a dire un'altra cosa: in questo momento noi siamo preoccupati per come il governo si è in occasioni simili comportato in passato, che la vicenda della identificazione di queste persone venga sovrapposta a quella della richiesta d'asilo, che sono due percorsi completamente separati, perché una cosa è identificarli e quindi verificare qual è la loro nazionalità e il loro nome e cognome reale, altra cosa è ammetterli alla procedura d'asilo, che è un diritto che va loro garantito a prescindere dalla loro nazionalità, perché non è la nazionalità che determina l'accesso o meno alla procedura d'asilo, quindi sono due cose distinte e siamo preoccupati che il governo faccia questa identificazione attraverso le ambasciate e i consolati. Sarebbe un disastro da un punto di vista dei diritti, perché chiunque può facilmente capire cosa vuol dire per uno che viene in Italia e in Europa a chiedere asilo essere identificato dal proprio governo. Vuol dire semplicemente mettere queste persone nelle mani dei governi da cui fuggono. È una cosa illegittima, diciamo, sia per la Costituzione italiana che per la Convenzione di Ginevra, che però il governo in passato ha fatto, e noi speriamo che oggi questa cosa non venga fatta, perché sarebbe veramente da irresponsabili. Una parte della stampa italiana ha utilizzato questa vicenda per continuare a promuovere il razzismo nei confronti degli immigrati, perché queste persone continuano a essere presentate come clandestini quando si tratta invece di persone in fuga da zone di guerra, quindi di profughi, e il centro di detenzione di Agrigento continua a essere chiamato centro d'accoglienza quando invece si tratta di un centro di un carcere per stranieri, quindi non si tratta di un centro d'accoglienza, e questo, diciamo così, va denunciato. Io spero che oggi si determinino le condizioni perché queste persone possano avere dei colloqui con degli avvocati indipendenti, cioè avvocati non pagati dal Ministero dell'Interno, cosa che è successo finora, e con interpreti che gli consentano di parlare nella loro lingua, altrimenti questi non si renderanno conto di qual è la loro condizione giuridica, e abbiamo anche il timore che vengano costretti a fare dichiarazioni che servano al governo per espellerli, cosa che è già successa in passato. Chiudo dicendo che questa vicenda verrà certamente utilizzata da Pisanu e dal governo per confermare la loro linea sul diritto d'asilo, quindi diciamo la proposta di legge sul diritto d'asilo che oggi va in discussione in Parlamento, che appunto, ripeto, è quella di considerare tutti i richiedenti asilo dei millantatori, ma noi ci opporremo a questa linea del governo con tutte le nostre forze, anche ricorrendo agli organismi internazionali, e consideriamo il ricorso alla detenzione nel caso dei richiedenti asilo un ricorso illegittimo, che la Costituzione, l'articolo 10,3 dice che le persone che vengono in Italia a chiedere asilo devono essere protette, e non si può pensare di imprigionare tutti quelli che arrivano in Italia per chiedere asilo.